Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo del mercato del lavoro per due motivi. Da un lato perché c'è un dato positivo, più che positivo, dagli Stati Uniti, uno dei pochi dati positivi che arrivano in questi giorni dagli Stati Uniti sul mercato del lavoro, che ha dato una spinta alle borse, o alcuni dicono anche un pretesto per le borse. Devo dire, il Nasdaq aveva aggiornato nuovi record, adesso però Wall Street guadagna lo 0,50% sul Dow Jones, mentre va Milano un po' ritracciato rispetto al rialzo di un'ora fa, più 2,5%, più 2% Parigi, più 2,5% anche Francoforte e più 1,13% Londra. E questo per quello che riguarda la parte, diciamo, dei mercati e delle borse. Per quello che ha a che fare invece con i dati europei e italiani, qui invece i dati sono non così buoni, e mi spiego. Il tasso di disoccupazione è risalito al 7,8%, ma la cosa più importante da questo punto di vista è la perdita di posti di lavoro che si è avuta sostanzialmente nei primi rispetto a un anno fa, scusatemi. Perché le persone in cerca di lavoro, quindi il dato è riferito a maggio, sono il 19% in più, 307.000 unità. Ma la cosa importante è che gli occupati in meno a maggio sono 84.000 sul mese precedente. Ma se si va a guardare il dato tendenziale, cioè il dato anno su anno, e beh, insomma, sono 613.000 in meno. E quindi il dato è brutto, inutile girarci attorno, sia maggio su aprile che maggio su maggio 2019. Meno 2,6%, ossia 613.000 unità, quindi persone in meno, sia le donne 270.000 in meno che gli uomini 343.000 in meno occupati rispetto a un anno prima. L'unica notizia positiva sui dati sull'occupazione italiana è che dopo due mesi aumenta il numero di ore lavorate pro capite, e questo almeno, e cala il tasso di inattività. E questo perché sappiamo che molte imprese hanno riaperto tra fine aprile e poi a maggio. Con il 18 maggio vi fu l'apertura anche pur condizionata di ristoranti, bar, esercizi commerciali. Il problema è che se si va a guardare il dato da febbraio 2020 a maggio, ci sono 400.000, quasi mezzo milione, 400.000 persone occupate in meno. E quindi, insomma, non dovrebbero arrivare in questo momento, visto che il dato di maggio aveva dentro ancora molte chiusure, non ci si attende, ma cercheremo di capirlo, un dato ulteriormente peggiore, ma neanche un gran miglioramento. Insomma, il dato più importante sono 600.000 persone che in meno che lavorano e quindi non si definiscono occupate. Attenzione al dato invece sulla disoccupazione, cioè chi sta cercando lavoro, perché è vero che è risalita, ma è risalita in maniera rispetto anche agli altri mesi. Però in questo caso la disoccupazione fotografa, dà una fotografia parziale, un po' perché chi è sostanzialmente ha perso ogni fiducia nel mercato del lavoro non si definisce nemmeno in cerca di occupazione, sia perché abbiamo moltissime persone in cassa integrazione, sono 5.800.000 i pagamenti di cassa integrazione ordinaria in deroga già effettuati dall'INPS a 2.900.000 lavoratori dipendenti che ne hanno fatto richiesta, sono ancora fuori, da quello che capiamo, 150.000 lavoratori. Però è chiaro, dico, che il dato della disoccupazione non fotografa in questo periodo l'andamento reale. È risalita di 1,2 punti al 7,8%, di 2 punti percentuali tra i giovani a 23,5%. Ne parleremo in apertura. Poi parleremo da un lato della vicenda Whirlpool, perché la Whirlpool, nonostante tutti i tentativi, ha, e a prescindere dagli effetti del Covid, il sito Whirlpool di Napoli cesserà la produzione il prossimo 31 ottobre, per quello lo ha confermato l'amministratore delegato di Whirlpool Italia, La Morgia, al tavolo in videoconferenza convocato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Torneremo a occuparci quindi di Whirlpool e poi invece ci occuperemo dei paradisi fiscali, o meglio di quanto sottraggano diciamo all'Italia. Perché? Perché da un lato oggi c'è stata la relazione dell'autorità garante della concorrenza del mercato, o meglio Rustichelli, che ne è il presidente, era in audizione in commissione alla Camera, e ha detto in maniera molto esplicita che dal dumping fiscale interno all'Unione Europea, e nello specifico fatto da paesi che si chiamano Belgio, Lussemburgo, Irlanda e Olanda, l'Italia perde circa 8 miliardi di euro, cioè perde la possibilità di tassare 23 miliardi di dollari di profitti e quindi 8 miliardi di entrate fiscali. Lo dico, e tra l'altro Rustichelli ha detto paesi come l'Irlanda, l'Olanda e il Lussemburgo sono veri e propri paradisi fiscali nell'area euro che attuano pratiche fiscali aggressive e grazie anche a queste pratiche registrano elevati tassi di crescita. Tant'è che il vice ministro Buffagni, vice ministro dello sviluppo economico, ha detto i paesi sono frugali sì con i soldi degli altri. Lo dico perché domani, è stato anticipato oggi su Corriere della Sera, c'è un'intervista al premier olandese Rutte, il quale dice nel titolo, insomma, l'Italia deve abituarsi a farcela deve imparare a farcela da sola. Ora ne parleremo più avanti, ma faccio presente a Rutte che prima del Covid l'Italia non aveva mai chiesto un aiuto, anzi gli avanzi primari c'erano, quindi la differenza tra quanto entra e esce prima di pagare gli interessi sul debito, e anche l'andamento del nostro deficit era assolutamente sotto il 3%, se questo è il tema di Rutte. Quindi noi non stavamo chiedendo nessun aiuto a nessuno prima del Covid. Ma faccio anche presente che è facile definirsi frugali quando, più che frugali, fregali, perché freghi, nel caso specifico dell'Olanda, sono 3 miliardi e mezzo i profitti spostati in Olanda, 11 miliardi in Lussemburgo, 6 miliardi in Irlanda, 3 miliardi e mezzo in Olanda e 2 miliardi in Belgio, con la conseguenza appunto di non poter tassare in Italia 23 miliardi di dollari di profitti. Quindi magari prima di farci la lezione ci può spiegare cosa servono tutti questi uffici che raccontava anche Sole 24 Ore, sedi legali dove c'è solo il campanello, non c'è altro, per dare la possibilità, o sedi fiscali, di non essere tassati in Italia o in Francia o in Germania, perché il discorso vale anche per altri, in Spagna, per altri paesi. Cioè, la lezione non la prendo da chi fa elusione fiscale o dumping fiscale e trae da lì parte del proprio vantaggio. Ecco, le lezioni le prendo da chi ha altri metodi. Comunque ne parleremo, perché secondo me l'Italia, se l'Olanda continua a avere questa posizione, dovrebbe anche far sentire la sua voce e sul tema appunto del dumping fiscale, dell'elusione fiscale che alcuni paesi permettono. È vero che c'è anche l'Irlanda, mi scrive qualcuno, ma almeno l'Irlanda sta zitta e non si erge, diciamo così, a professorino della frugalità, quando sei invece un grande esperto e professore dell'elusione fiscale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, vediamo altri temi di questa giornata. Dagli Stati Uniti, al di là dei dati sull'occupazione, arriva un nuovo record, ahimè, oltre 50.000 casi in 24 ore, 52.982, la prima volta che in 24 ore si registrano più di 50.000 casi negli Stati Uniti. Però il vicepresidente americano Mike Pence, in un'intervista alla CNBC, ha detto non c'è bisogno di un obbligo di indossare la mascherina a livello nazionale. La decisione spetta ai singoli stati. Rispondeva in questo modo Pence alla speaker della Camera Nancy Pelosi, che ha chiesto più volte la necessità di una norma a livello federale. In effetti, scusatemi, da quello che vediamo negli Stati Uniti, proprio l'estrema discrezionalità con cui ognuno ha deciso le proprie regole non sta permettendo di gestire la pandemia. Guarda quello che è successo in Texas o in Arizona o in altri stati. Veniamo all'Europa. Von der Leyen, accordo rapido e ambizioso è una priorità dell'Unione Europea, e poco fa in conferenza stampa con Angela Merkel, la Presidente dell'Unione Europea, della Commissione Europea, von der Leyen, ha sottolineato come la presidenza tedesca arrivi in un momento cruciale per la storia dell'Unione. The launch of the German presidency comes indeed at a very crucial time. These next 6 months will be determining for the future of the European Union, and during this time we know that we will not only have to forge an agreement for next generation EU and the 7-year budget of the European Union. La presidenza tedesca, appunto, ha detto la von der Leyen, arriva in un momento cruciale. I prossimi 6 mesi sono determinanti per il futuro dell'Unione Europea, in cui non solo dovremo arrivare a un accordo sul Next, ma dobbiamo essere sicuri che sia approvato dal Parlamento e ratificato. Quindi la pressione dal punto di vista temporale è enorme. Ogni giorno, ha aggiunto la von der Leyen, che sprechiamo, più persone perdono il lavoro, più aziende soffrono e più si indebolisce l'economia. Quindi bisogna affrontare questa, diciamo, istanza e urgenza temporale. Però ho tradotto praticamente col testo che è arrivato in agenzia, perché le dichiarazioni sono di pochi minuti fa. E invece preoccupazione e incertezza sulla ripresa, sul ritmo della ripresa, le ha manifestate oggi il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni nel corso della sua audizione alla Commissione per le politiche europee della Camera. La gravità delle previsioni per quest'anno, che comunque sono di una recessione a 2 cifre per un paese come l'Italia, ma piuttosto forse nei ritmi della possibile, auspicata e che senz'altro ci sarà, ripresa, che però potrebbe rilevarsi piuttosto contrastata. Di fronte a questa incertezza, direi dobbiamo fare i conti con un fatto positivo, che in effetti la reazione europea, intendo dire delle istituzioni europee, della Commissione, della BCE, è stata una reazione piuttosto forte e tempestiva. Gli anglosassoni spesso usano l'espressione too little and too late, troppo poco, troppo tardi, e si è fatto largo uso di questa espressione nei confronti della crisi precedente, della crisi del 2008-2010. Questa volta direi che la reazione è stata invece piuttosto tempestiva e certamente di dimensioni senza precedenti. E poi ha detto Gentiloni, questo rispondendo anche a Dombrovskis, alcune dichiarazioni, diciamo, anche lì che arrivavano dall'Olanda, ma non solo, attenzione a riattivare il patto di stabilità troppo presto. In che forme portare a conclusione questa revisione del patto di crescita e di stabilità? E sarà una grande discussione molto importante l'anno prossimo. Non bisogna fare errori di tempistica nella stretta alla spesa, che certamente gradualmente dovrà esserci. Noi abbiamo già un precedente nella crisi finanziaria precedente, che è stata una crisi, come si dice, una double dip recession, cioè una recessione a due picchi negativi, proprio perché la stretta è intervenuta troppo presto nei confronti delle economie europee. Non dobbiamo fare riferimento tanto al fatto che le economie europee tornino a crescere, perché questo avverrà senz'altro, ma dobbiamo fare riferimento ai livelli del PIL precedenti alla pandemia, no? Quando le economie europee si avvicineranno nel loro insieme, allora bisognerà certamente reintrodurre, diciamo più che reintrodurre, eliminare questa clausola di esclusione. Come si concluderà la revisione del patto di stabilità? Io penso che debba concludersi trovando delle formule più che mai dopo la pandemia per dare un sostegno agli investimenti pubblici e in particolare agli investimenti pubblici orientati alle grandi transizioni digitale e ambientale. Allora passiamo invece, o meglio restiamo in Europa, ma per parlare di compagnie aeree, perché da un lato Moody's ha declassato tutti i voti su Lufthansa e sulla sua, diciamo così, famiglia aziendale, mentre in tema di compagnie aeree, ma in questo caso in Italia, allora c'è stata una doppia procedura di infrazione per l'Italia sui rimborsi ai passeggeri di viaggi cancellati, doppia procedura di infrazione da parte di Bruxelles, chiaramente. Che cosa è successo? La prima è nei confronti di Italia e Grecia, perché hanno adottato una legislazione che consente alle compagnie di offrire voucher come unica forma di rimborso. In sostanza l'Unione Europea dice: attenzione, è un diritto dei viaggiatori poter scegliere il rimborso e quindi non puoi imporre solo il voucher. Ed è il motivo per cui abbiamo adottato una procedura di infrazione verso la Grecia e verso l'Italia, perché hanno usato il solo voucher come metodo di rimborso e va contro il diritto dei passeggeri. Tra l'altro i due paesi, cioè Italia e Grecia, sono oggetto anche di un'altra procedura di infrazione per le norme nazionali relativamente ai viaggi tutto compreso, che consentono agli organizzatori di mettere voucher invece del rimborso in denaro per i viaggi annullati o di posticipare il rimborso ben oltre il periodo di 14 giorni come stabilito invece nella direttiva. Quindi c'è un altro fronte che si apre. E poi faccio notare che c'è una polemica di Ryanair, se ho ben visto, nei confronti dell'Italia, o meglio della decisione italiana sulle cappelliere. Sapete che cosa è successo? L'ENAC ha detto che nei voli il bagaglio non può essere messo nelle cappelliere, può essere messo solo in stiva, perché vi è il rischio che se no il bagaglio nelle cappelliere contamini, diciamo, il bagaglio possa risultare contaminato dal bagaglio di un altro viaggiatore. Io veramente non ho capito nulla di questa decisione dell'ENAC, che chiederemo anche spiegazioni, perché se poi il bagaglio invece che metterlo nella cappelliera lo devo mettere in stiva e quindi lo lascio sul nastro trasportatore, va comunque a contagiarsi con tutti gli altri bagagli. Anzi, da un punto di vista statistico, se avevo prima una possibilità di contagio, che era il trolley della persona a me vicina, la cappelliera lì vicina, lì se lo butto assieme agli altri in un nastro trasportatore, a mio avviso aumento le possibilità, statisticamente, non dico da un punto di vista virologico, oltre che creare dei grandissimi casini, perché tutti si stanno lamentando del tempo, che è spesso più lungo del viaggio, se il viaggio è nazionale, per ritirare il bagaglio. Veramente non ho capito la logica di non mettere il bagaglio in cappelliera. Adesso contatteremo l'ENAC, anche perché l'abbiamo fatto solo noi. Capisco tutto, però insomma delle volte ti chiedi la logicità di certe decisioni, anche perché mi hanno fatto notare molti ascoltatori, quando poi vai a ritirare questo bagaglio, a ritiro bagagli, c'è l'ammasso di persone giustamente vicino ai nastri, come sempre avvenuto, ed è difficile rispettare le distanze di sicurezza. Quindi fammi capire, per un bagaglio che poteva essere un trolley, che poteva essere potenzialmente così infettato e poteva potenzialmente contaminare il trolley accanto, abbiamo deciso di buttare tutti i trolley assieme nella stiva, sul nastro, e di farli ritirare con un bel ammasso di persone. Mi ricordo un po' come il discorso: la scuola è chiusa perché c'è un rischio per gli insegnanti, ma i figli possono stare con i nonni, per gli insegnanti più anziani, ma i figli possono stare con i nonni. Ci sono delle cose che oggettivamente dico non riesco a capire la logicità, e così anche il nesso causale, mettiamolo in questo modo. Sul DL semplificazioni, alle 16 c'è un incontro in pre-consiglio dei ministri sul testo. Conte ha detto: dobbiamo tutti osare, ho fretta, serve responsabilità. Il presidente Confindustria Bonomi ha detto: ci auguriamo che il governo definisca e varia più presto il cosiddetto decreto semplificazione, che è stato annunciato. Dopo il metro e la pubblicità parleremo non tanto del decreto semplificazione, perché ancora non lo conosciamo nell'accordo finale, ma di quello che è stata la relazione dell'ANAC, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di oggi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. minuti. Dunque, la relazione dell'ANAC, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Nei primi quattro mesi dell'anno, causa ovviamente emergenza Covid, vi è stato un calo del 33% del valore degli appalti. Il Nord ha perso circa il 50% rispetto all'anno scorso, meno 14 miliardi in meno. Il Nord pesa per l'80% sul dato nazionale, che è di 18 miliardi e 600 milioni di appalti in meno nel primo quadrimestre. Ancora 22.000 procedure di gara per 23 miliardi non sono state ancora perfezionate, perché è praticamente il tasso di perfezionamento si aggira sul 90%, ma insomma anche qui sempre causa Covid. Gli appalti sono scesi del 24% per numero e del 33% in valore, appunto pari a 18 miliardi e 600 milioni, con il nord più colpito, la regione Lombardia, meno 63%, 10 miliardi in meno. Qualche regione invece ha addirittura fatto segnare il segno più, scusatemi il gioco di parole. Il Lazio ha avuto invece il 14% in più di appalti, pari a 550 milioni di euro in più. E poi l'ANAC mette in guardia su come gli effetti del Covid possono essere devastanti, devo dire che l'hanno fatto anche le procure e la Procura Nazionale Antimafia, sulla corruzione e soprattutto sulle infiltrazioni mafiose. Nel 2019 sono stati comunicati 633 provvedimenti di interdittiva antimafia, il 10% in più rispetto al 2018. E il presidente dell'ANAC, Francesco Merloni, ha detto: attenzione, non si può abbassare la guardia proprio in questo periodo. Vi sono state indubbiamente delle difficoltà ad investire sulla prevenzione. Si tratta di attività per lo più svolte a costo zero, senza formazione e nuove assunzioni per i noti vincoli di spesa cui è sottoposta la pubblica amministrazione, che inducono molti a giudicare la normativa anticorruzione come un inutile aggravio. L'autorità ritiene questo giudizio estremamente pericoloso, perché diffonde l'idea che la prevenzione è solo adempimento formale. Abbassare la guardia, alimentare la percezione generale che il problema della corruzione non sia poi così rilevante, soprattutto in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo, sarebbe un grave errore e un arretramento rispetto agli importanti passi avanti compiuti. E poi sullo sblocca cantieri. Il provvedimento 2019 e lo sblocca cantieri bis, come l'ha chiamato il presidente dell'ANAC, c'è il rischio, c'è una perplessità dell'autorità, dice: attenzione, il rischio è che possa avere un basso beneficio, perché gli appalti sotto la soglia oggetto delle semplificazioni normative hanno avuto una crescita del 10% a fronte di una crescita del mercato del 23%. Non c'è stato nel precedente sblocca cantieri alcun beneficio concreto, perché i cantieri più piccoli non avevano alcuna necessità di sblocco, ci sono già strumenti per avviare e chiudere velocemente le gare. Dopo il provvedimento del 2019 vi è ora un rischio di uno sblocca cantieri bis con le stesse problematiche. Le perplessità che l'autorità aveva su quel decreto trovano conferma nei dati. A fronte di una crescita del mercato del 23%, quelli degli appalti sotto soglia, oggetto delle semplificazioni di allora, è stata di poco oltre il 10%. Dunque, non si è avuto nessun beneficio concreto. Il dato non deve stupire più di tanto. I cantieri più piccoli non avevano alcuna necessità di sblocco, perché già ci sono gli strumenti per avviare e chiudere velocemente le gare. We'll be right back. E nel frattempo la l'ANCE ha detto, l'Associazione dei Costruttori Italiani ha detto, occorre ripristinare l'obbligo per i concessionari autostradali le cui concessioni siano state affidate con trattativa privata di esternalizzare a terzi con gara l'80% dei lavori afferenti alla concessione. E l'ANCE chiede di prevedere che l'obbligo di esternalizzazione si applichi a tutti i lavori che riguardano la gestione delle infrastrutture, da affidarsi quindi tramite procedura a evidenza pubblica nel rispetto dei principi nazionali e comunitari. Quindi dice sostanzialmente non affidatele in house con società interne. Noi vedremo cosa uscirà adesso dal DL semplificazioni, anche perché, ripeto, va benissimo la riduzione fiscale, quello che volete, l'IRPEF, l'IVA, ho visto l'ipotesi di un'IVA ridotta solo se si paga col POS, quello che volete, però la spinta più forte arriva da una velocizzazione immediata degli investimenti infrastrutturali, degli investimenti in generale pubblici, a cui seguono quelli privati, infrastrutturali, grandi e piccole opere da far partire velocemente, e a questo dovrebbe servire il DL semplificazioni. Nel frattempo commentiamo quello che già c'è, e cioè la perdita di posti di lavoro. Oggi l'Istat ci dice sostanzialmente che vi sono state, rispetto a un anno fa, vi è stato un calo degli occupati rispetto a maggio, quindi di un anno fa, di 613.000 persone. Non serve guardare tanto la disoccupazione oggi, che è al 7, risalita al 7,8%, 1,2 punti in più rispetto all'anno fa, e tra i giovani al 23,5%, 2 punti percentuali in più. Perché con la cassa integrazione e con il fatto che ci siano meno persone che stanno cercando lavoro e quindi non vengono catalogate come disoccupati, ma sono semplicemente inattivi, il dato a mio avviso è troppo buono, mettiamola così. Meglio guardare il dato sugli occupati, che ci dice che da maggio a aprile ci sono stati 84.000 occupati in meno, coinvolgendo soprattutto le donne, 65.000 in meno contro 19.000 occupati uomini in meno. Ma soprattutto che se si guarda il maggio 2020 sul maggio del 2019 ci sono 613.000 occupati in meno, meno 2,6%. E in questo caso sono più gli uomini che le donne, 270.000 donne occupate in meno, 343.000 occupati uomini in meno. Chiedo però conferma, cioè se dobbiamo continuare in questi mesi di altissimo ricorso alla cassa integrazione, ci sono più o meno 3 milioni di lavoratori dipendenti che ne hanno fatto richiesta finora e 5.800.000 pagamenti avvenuti. Chiedo invece a Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione ADAPT, nostro ospite spesso quando parliamo del mondo del lavoro e dei dati sulla disoccupazione, anche perché appunto dirige il Centro Studi sul Lavoro e l'Occupazione fondato da Marco Biagi. Buonasera Seghezzi. Buonasera. È corretto guardare più all'occupazione in questo periodo speciale, diciamo eccezionale, qual è quello del Covid, più che al dato sulla disoccupazione in senso stretto? Sì, in linea di massima sì, anche se questo mese il dato sulla disoccupazione, che come giustamente diceva lei è un po' viziato dal fatto che coloro che sono in cassa integrazione sono considerati occupati, comunque ci fornisce un'indicazione interessante, ossia di un cambio di rotta rispetto all'ultimo mese. Se noi prima abbiamo visto un calo della disoccupazione e un aumento degli inattivi, soprattutto ad aprile, mese in cui era tutto chiuso, e quindi le persone non cercavano lavoro probabilmente per questo, in questo mese invece a maggio, quindi con complice la riapertura, abbiamo visto un calo degli inattivi e un aumento della disoccupazione, quindi le persone hanno ricominciato a cercare lavoro. Chiaro che adesso la lente sarà soprattutto sul numero degli occupati, per capire se questo numero di persone alto che ha ricominciato a cercare lavoro troverà una risposta alla sua domanda di lavoro o meno. E quanto incide in questo però, perché adesso tutti stiamo guardando a novembre, ottobre soprattutto, insomma all'autunno, Quanto incide il blocco dei licenziamenti su questo? Perché se non abbiamo capito se il governo voglia estendere la CIG e il blocco dei licenziamenti, oppure voglia, come avevo capito da alcune dichiarazioni che ho visto arrivare dal governo, voglia invece limitare il blocco dei licenziamenti ad alcuni settori specifici, quelli in maggiore difficoltà, e quindi l'estensione della cassa integrazione per alcuni settori, a partire dal turismo, chiaramente, lato sensu. Conta tantissimo, infatti il dato degli 84.000 occupati in meno è un dato molto basso, che se poi andiamo a vedere fondamentalmente si concentra negli occupati a termine. Questo è l'altro elemento importante. Noi abbiamo perso nell'ultimo trimestre 380.000 occupati, nell'ultimo anno, come diceva lei, 600.000 circa. Se andiamo a vedere che tipologia di occupati sono, nell'ultimo trimestre su 380.000, 312.000 sono occupati a termine. Quindi, diciamo, in questo momento la perdita di posti di lavoro si sta, ma era imprevedibile, essendovi il divieto di licenziare, si sta scaricando, diciamo così, sui contratti a termine che non vengono rinnovati, delle volte anche per la causale. Ecco perché, secondo me, è importante. Adesso vedremo se arriverà questa. Questo accordo tra 5 Stelle e PD, da quello che si è capito i 5 Stelle chiedono di prorogare la cassa integrazione, il PD ha detto va bene, però mettiamo mano anche ai contratti a termine e sospendiamo le causali introdotte col DL Dignità che bloccano il rinnovo del contratto a termine. Per cui lei sta dicendo tutto si è scaricato su tempi determinati, per capirci, e pochissimo sul lavoro dipendente. Come legge il fatto che a maggio, dopo due mesi di decisa diminuzione, siano aumentate le ore lavorate? È solo l'effetto, diciamo, della riapertura che è avvenuta a maggio in tutti i settori? È l'effetto della riapertura da un lato, e dal fatto che si evitano nuove assunzioni, e quindi è probabile che utilizzare di più i lavoratori che già si hanno, magari chiedendo qualche part time di lavorare di più o facendo più straordinari, ma evidentemente le assunzioni oggi sono tale. Un attimo, ho perso il collegamento con Segheiz, intanto mando il traffico e poi lo riprendo, perché mi interessava capire invece la prospettiva dei prossimi mesi, nel senso che se adesso si sta scaricando sui contratti a tempo determinato o anche su altre forme di collaborazione, vorrei capire se invece dobbiamo attenderci un attacco anche ai tempi indeterminati nei prossimi mesi, ma dopo il traffico, dai. Focus Economia. ...17:49 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Segheiz, allora, due domande, forse sono troppo ottimista, comunque. Se in questo momento la disoccupazione, cioè il mancato rinnovo, si sta, più che disoccupazione, la non occupazione, si sta scaricando sui contratti a termine e immagino anche su forme di collaborazione, appunto, non da lavoro dipendente, possiamo aspettarci che il grosso si sia scaricato o si stia scaricando tra maggio e giugno, e quindi almeno non avere altre notizie negative da questo punto di vista? E invece quando lei si attende, ahimè, che arrivi lo scarico del numero di mancata occupazione anche per gli altri lavori? Perché un dato della disoccupazione al 7,8%, lo dico in maniera molto tranquilla, sarebbe, lo firmerei domani, avendo avuto noi per anni la disoccupazione al 10%, non c'era il Covid, non c'era la crisi, non c'era niente. È chiaramente un dato, a mio avviso, falsato. Segheiz. Allora, rispetto a quest'ultima cosa che dice, sicuramente quando ci sarà lo sblocco dei licenziamenti, noi stiamo continuando a rimandare una scelta che inevitabilmente avrà delle conseguenze. La scommessa è che più si va avanti, più l'economia si riprenda e quindi le conseguenze saranno inferiori, ma inevitabilmente nel momento in cui ci sarà la fine di questo blocco, e oltretutto i soldi della cassa integrazione sappiamo che non sono infiniti, nonostante le risorse che possono raggiungersi, ci sarà questa conseguenza. Rispetto all'altro aspetto che mi chiedeva, ogni mese noi vediamo che alla fine del mese, perché certo sui contratti a termine viene apposta una data di scadenza, spesso alla fine del mese, vediamo un calo. Quindi io non escludo che mese dopo mese si andrà avanti a vedere questo calo, perché tutto dipende da quando scadono. Non faccio fatica a pensare che in un momento di blocco dei licenziamenti, in cui l'unica modalità di riduzione del costo del lavoro è quella di non rinnovare i contratti a termine, non si vada avanti in questa direzione. Purtroppo. Dunque, qualcuno mi dice che fine hanno fatto i Navigator e i centri per l'impiego, ma mi sembra che i Navigator stiano a casa e non abbiano combinato nulla, no, ma su questo io non avevo dubbi, non è neanche colpa dei Navigator, è colpa di chi se li ha inventati. Ah, devo fare anche un approfondimento su Mimmo Parisi prima o poi, continuo a rimandarlo, questo bellissimo, ma da dedicarci una classifica di Focus Economia a sé stante. Comunque dei Navigator mi sembra, Seghezzi, la domanda gliela devo fare, ma la risposta mi sembra abbastanza scontata. Quel meccanismo lì, insomma, non sta producendo nulla, no? No, sono persone, come dice lei, non è neanche colpa loro, sono persone che sono state messe lì, secondo me, senza un'adeguata formazione, senza un'adeguata cognizione di causa della complicatezza del mercato del lavoro italiano, non si può certo pretendere che funzioni. Oltretutto, l'obbligo di condizionalità oggi è sospeso, quindi le persone che prendono reddito di cittadinanza non sono obbligate a cercare attivamente un lavoro, per cui sì, le famose tre offerte che non potevi, esatto, rifiutare, tutto sospeso, quindi devo dire in questo momento non ci sono neanche le offerte in molti casi. Ancora qualcuno mi segnala, guardi, che segnalano casi di aziende che utilizzerebbero, pur avendo i dipendenti in cassa integrazione in deroga o ordinaria o straordinaria, utilizzerebbero i dipendenti e li farebbero venire al lavoro. Guardate, per carità, non metto in dubbio che qualcuno faccia il furbo, anzi compie un reato, ma è un reato, Seghezzi, si chiama truffa ai danni dello Stato. I soldi della cassa integrazione sono soldi pubblici, sono soldi anche nostri, non puoi far lavorare i dipendenti. Forse quello che manca è qualche ispettore del lavoro in più? Ah, assolutamente, gli ascoltatori conoscono situazioni del genere, le segnalino, perché evidentemente vuol dire è una truffa non da poco. Ho visto il grande numero di richiesta di cassa integrazione che ci sarà nei prossimi mesi e le poche risorse che ci sono, quindi direi che vadano concentrate su quei settori dove per assenza di domanda non si può lavorare, non per scelta. Sì, dopodiché adesso, ma è una battuta, io avrei utilizzato almeno i 2000 Navigator, li avrei fatto fare, avrei preso 2000 ispettori sul lavoro, anche perché hanno comunque uno stipendio abbastanza buono, se non ricordo male sono 23.000 euro l'anno più 300 di rimborso ogni mese. E insomma avrei rinforzato la parte di ispezioni sul lavoro, perché quello sì, proprio per non danneggiare anche chi la cassa integrazione la utilizza correttamente, non esiste fare sprecare e abusare di soldi pubblici, appunto truffa dai nello Stato, ed essere anche anticoncorrenziali nei confronti dell'imprenditore che invece la cassa integrazione la usa in maniera corretta. Grazie, e vedremo, li commenteremo mese per mese. Grazie anche a Francesco Seghetti, direttore della Fondazione Adapt. Noi restiamo ancora per un attimo sui posti di lavoro, ma in questo caso quelli americani, perché come dicevo è il dato che ha più infiammato le borse, il dato sulla disoccupazione a stelle e strisce. Come on. Allora, le borse che si sono mosse, come dicevo, bene, anche Milano alla fine recupera e va vicino ai massimi di giornata, più 2,90% Milano, più 2,5% Parigi, più 2,80% Francoforte, Londra più 1,34%. Il Nasdaq aveva toccato anche un nuovo record. Che cosa è successo? La disoccupazione è calata nel mese di giugno all'11,1% negli Stati Uniti, perché l'economia americana ha creato 4.800.000 posti di lavoro. Gli analisti scommettevano su un dato ben diverso, 3.200.000, quindi 1.500.000 in meno rispetto a quelli che si sono creati effettivamente. C'è chiaramente ancora tutta la preoccupazione per i rimbalzi vari dei contagi da coronavirus, però, e le richieste di sussidi sono state di 1.430.000 la settimana scorsa. Però chiaramente Trump, che è in estrema difficoltà, ha festeggiato questi dati, record di posti di lavoro, l'economia torna forte, l'economia torna a ruggire, il 2021 sarà un anno storico, e chiaramente festeggia perché è sotto su tutti i sondaggi. Comunque i titoli in borsa e invece i paradisi fiscali e la posizione olandese e la vicenda Whirlpool li affronteremo dopo il GR24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, diciamo delle borse che hanno chiuso bene grazie ai dati americani sulla disoccupazione e risultati nettamente, o meglio sui nuovi occupati, risultati nettamente più alti del previsto. E i titoli per quello che riguarda Milano, che ha guadagnato il 2,90%, Unicredit più 5,60%, Banco BPM più 5%, Atlantia più 4,80%, Banca Mediolanum più 4,70%, Mediobanca più 4,30%, Unipol più 4%, Fineco più 4%. Attenzione, lunedì parte l'offerta pubblica di scambio di Intesa Subi e vanno bene entrambi i titoli, praticamente identici oggi. Intesa San Paolo più 3,68%, Ubibanca più 3,60%, Enel più 3,20%, come Exore e Snam. Il 3,10% lo guadagna Tenaris, il 2,90% rialzo di Eni, il 2,70% quello di Campari Generali e anche Azimut e Banca Generali. Di negativo c'è poco, anzi nulla, tra i titoli maggiore capitalizzazione. Di Assori in cresce meno della media, più 0,18%. E dalla finanza andiamo all'economia, che ahimè è più reale e in questo caso non potrebbe essere. Mi riferisco al rapporto tra finanza ed economia quando parliamo di tassazione a livello europeo. Perché? Perché oggi c'è stata la relazione, o meglio un intervento in commissione alla Camera del presidente dell'autorità antitrust Roberto Rustichelli, il quale sostanzialmente che cosa ha detto? È tornato sul tema del dumping fiscale interno all'Europa e ha detto: attenzione, noi stimiamo che l'Italia perda ogni anno 23 miliardi di profitti da tassare, 11 miliardi vengono spostati in Lussemburgo, 6 miliardi in Olanda, 6 miliardi in Irlanda, 3 miliardi e mezzo in Olanda e 2 miliardi in Belgio. E questo comporta anche un danno che può essere stimato tra i 5 e gli 8 miliardi all'anno. Tra i 5 e gli 8 miliardi l'anno, appunto, di mancate tasse, cioè su 23 miliardi di imponibile e di utili, scusami. E aggiunge Rustichelli: paesi come l'Irlanda, l'Olanda e il Lussemburgo sono dei veri e propri paradisi fiscali nell'area euro, che attuano pratiche fiscali aggressive. Tant'è che, appunto, che il vice ministro allo sviluppo economico Buffagni ha detto: sono i paesi frugali, sì, ma con i soldi degli altri. Io li ho chiamati paesi fregali, perché te fregano soldi, ma non ce l'ho. Adesso qualcuno mi dice: ma scusi, mica è illegale? No, non ho detto che sia illegale, ma è abbastanza spiacevole prendere lezioni dal premier olandese Rutte, che in un'intervista domani con su 7, il magazine del Corriere, oggi anticipata, dice sostanzialmente che l'Italia deve imparare a farcela da sola. Io ho ricordato in apertura del programma che ce la facevamo benissimo da soli, anche come deficit prima del Covid. Ecco, e fregiarsi del titolo frugali quando poi, insomma, l'Olanda è, assieme appunto a Irlanda, ma meno l'Irlanda sta zitta, e anche il Belgio e il Lussemburgo, è il principale paradiso fiscale interno all'Unione Europea. Alessandro Galimberti, che molto se ne è occupato per il Sole 24 Ore. Buonasera Alessandro. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Dunque Alessandro, da questo punto di vista mi sembra di poter dire che non scopriamo nulla di nuovo, anche se i dati sono più dettagliati oggi, quelli che ha ricordato Rustichelli. Purtroppo su questo l'Europa mi sembra ancora totalmente ferma nel tentativo di arrivare, diciamo, a un'armonizzazione fiscale. Io non voglio che si alzino le tasse in Olanda, come scrive qualcuno. Dico solo che se sei in un mercato unico e ti vengono a fare pulci paesi minori sul recovery fund perché ti dicono no, solo prestiti, non sovvenzioni, quant'altro, vorrei che ci fosse una reciprocità con tutti, questo è. A che punto si è e qual è, diciamo, lo stato d'avanzamento delle cose nell'ipotesi di arrivare almeno a una non concorrenza interna che si lega in parte anche con la web tax, perché sappiamo che questi stati sono utilizzati spesso anche dai giganti del web. Alessandro. Guarda Sebastiano, siamo al punto di sempre, cioè che l'Europa negli ultimi 23 anni non ha mai cambiato il punto di vista. Libertà di stabilimento, che vuol dire che sia i privati sia le aziende possono andare dove vogliono stare, e libertà nella determinazione delle aliquote fiscali all'interno dei singoli paesi. Quindi linguaggio di Rustichelli va bene, suggestivo anche per un dibattito interno, per cercare ovviamente delle giustificazioni a quello che al mancato imponibile, cioè quei dati lì sono dati incontestabili, però bisognerebbe andare un po' oltre e capire se la concorrenza sleale, butto lì una provocazione ma poi torniamo all'analisi, se la concorrenza sleale è attrarre società straniere, non solo con le aliquote corporate, cioè sulle redditi sociali, sui dividendi e quant'altro, sugli intangible più agevoli, ma anche con dei ruling con l'amministrazione fiscale, che vuol dire accordi legittimi e alla luce del sole. Allora, è più sleale, concorrenza sleale questo, cioè aliquote più basse, accordi chiari con l'amministrazione fiscale, o è più concorrenza sleale far lavorare le imprese del proprio paese con un carico fiscale elevatissimo e nell'incertezza globale fiscale nei rapporti con l'agenzia? Perché forse rovesciando il punto di vista potremmo anche cambiare anche a modalità di azione e di atteggiamento. In ogni caso l'Unione Europea, per rispondere alla tua domanda, non ha nessuna intenzione, che sappiamo un'unione solo monetaria, no? E parzialmente bancaria, non ha nessuna intenzione di cambiare le regole, perché per cambiare le regole fiscali ci vuole l'unanimità. Paesi come Lussemburgo, Olanda e Irlanda, che sono dei paesi competitivi da questo punto di vista, chiamarli paradisi forse da un po' di tempo in qua è sbagliato, continueranno a desiderare di avere autonomia fiscale come tutti gli altri paesi come la Polonia e l'Ungheria, che sono paesi a tassazione bassissima tra l'altro anche sulle società, continueranno a desiderare avere un fisco competitivo, e noi paesi come l'Italia, come la Francia, meno la Germania che di queste cose è meno preoccupata, continueremo a lamentarci del fatto che questi paesi attraggono i capitali delle società. Però mettiamoci bene in testa, Rustichelli lo sa benissimo, lo sanno tutti, che non stanno violando nessuna regola europea. No, questo l'ho detto. Questo tu lo ripeti sempre ed è corretto. Fino al 2013, per essere chiari, i ruling, cioè gli accordi preventivi con le agenzie, erano fatti sotto banco. Non a caso poi l'Unione Europea, la Commissione, li ha, come diciamo, sgamati, li ha individuati e ha poi spiccato quelle multe clamorose a Google, per tornare ai GAFAM, no, di cui parlavi prima. E quindi quando c'erano quei ruling lì che sotto banco, allora sì che è giusto parlare di paradiso fiscale, bene, sono stati tutti individuati e da 2013 i ruling, cioè gli accordi preventivi con l'agenzia che ti danno certezza del quadro giuridico e fiscale, sono, si possono fare, devono essere però comunicati in una rete di dominio europeo, cioè tutti i paesi sanno quali sono oggi i ruling delle varie società nei vari paesi. Forse dovremmo cominciare a pensare di avere un sistema anche fiscale da questo punto di vista competitivo degli altri. Paradiso fiscale andava bene quando si andava in Svizzera fino a 8 anni fa, o in Austria, con il nero, cioè con le macchine cariche di nero inteso di contante, oppure con delle transazioni sotto traccia. Allora quella, la Svizzera eccetera, erano paradisi fiscali. Oggi neppure più la Svizzera è un paradiso fiscale da questo punto di vista, tantomeno gli altri paesi europei. Cioè, dobbiamo imparare a capire che la competizione fiscale, le regole che si è date all'Europa sono di competizione fiscale, e allora a questo punto è giusto entrare in quell'ottica. Ribaltare il ragionamento in qualche modo. Secondo me sì, perché siccome... Che non c'entra però con la web taxation, questo è un altro fronte Europa contro Stati Uniti, qui tu stai parlando internamente all'Europa. No, è chiarissimo il tuo ragionamento, e ne ringraziati, devo dare adesso l'aggiornamento invece... della protezione civile, su come sta andando il coronavirus. Allora, la buona notizia, se vogliamo, è che vi siano vittime in sole 4 regioni. La notizia meno buona è che le vittime sono aumentate, sono 30, a questo punto ieri invece erano state 21. E anche i nuovi contagiati, anche se sappiamo che qui conto molto il numero di tamponi, ma i tamponi sono identici a quelli di ieri, sono 201 e quindi in aumento rispetto a ieri quando erano stati 187, di questi quasi la metà in Lombardia, 98 casi. E la buona notizia, dicevo, che le vittime invece sono tutte concentrate in quattro regioni: Lombardia 21, Piemonte 5, Toscana 3, Emilia Romagna 1. Tutte le altre regioni, comprese le province autonome di Trento e Bolzano, non hanno registrato alcun decesso. Quanto invece agli altri dati clinici, ci sono 5 pazienti in meno in terapia intensiva per un totale di 82, e la metà sono in Lombardia, 41, mentre da questo punto di vista i ricoverati con sintomi, quindi non in terapia intensiva ma ricoverati comunque, sono 62 in meno di ieri e scendono a 963, quindi scendono per la prima volta sotto le 1000 unità. Questi dati, adesso c'è il traffico. Logica, spazio, tempo, module block, l'evoluzione del magazzino. Vi presento Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia e andiamo sulla vicenda Whirlpool, una vicenda che seguiamo, ahimè, dico anche dal pre-coronavirus, e nonostante il coronavirus l'amministratore legato di Whirlpool Italia, Luigi Lamorgia, al tavolo in videoconferenza convocato dal Ministero dello Sviluppo Economico con l'azienda, con Invitalia, con la Regione Campania e con i sindacati, ha detto: guardate, ho già comunicato ai fornitori che noi sospendiamo la produzione nel sito Whirlpool di Napoli il prossimo 31 ottobre. Ora c'è un tema occupazionale, visto che abbiamo aperto la trasmissione sui dati sull'occupazione, ci lavorano 430 persone in un'area come quella, diciamo, campana, dove non è esattamente facile trovare lavoro, ma c'è anche un tema così di opportunità, perché non sfugge a nessuno che la Whirlpool è sembrata nemmeno tentare una nuova fase di accordo, con tutte le incertezze che derivano dalla situazione, come vogliamo chiamarla, post emergenza Covid. No, siamo ancora in emergenza Covid, diciamo, tentativo di recuperare dall'emergenza Covid. L'azienda ha detto di essere disponibile a partecipare e supportare il progetto di reindustrializzazione per garantire la continuità produttiva del sito di Napoli. Il ministro dello sviluppo economico Patuanelli ha detto: noi dal primo giorno abbiamo detto che siamo disposti a fare qualunque cosa, intanto stiamo lavorando con Invitalia ad un possibile piano B. E il prossimo 31 luglio vi sarà un nuovo incontro, in particolare sul futuro dello stabilimento napoletano, anche col business plan, come si chiama in gergo, che verrà presentato da Invitalia. Gli operai chiaramente parlano di un tavolo deludente, nessuna apertura da parte dell'azienda, ha confermato la chiusura fino a ottobre, siamo pronti alla mobilitazione. E poco fa il governatore della Campania, De Luca, ha detto che su Whirlpool la regione si presenta al tavolo trattative e se si dovesse aprire riconferma l'impegno a mettere 20 milioni per un sostegno agli investimenti della proprietà Whirlpool se decidono di investire. Però mi sembra che la Whirlpool, disponibilità della Regione Campania o quant'altro, non voglia retrocedere, vada avanti e appunto come se nulla fosse successo. Paolo Bricco del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, qui c'è un tema, dicevo Paolo, di persone, 430 dipendenti. C'è anche, a mio avviso, un tema di opportunità. Allora, ho avuto io una sensazione strana o nemmeno di fronte al piano A di Patuanelli, il ruolo di Invitalia, l'apertura di De Luca, ma la Whirlpool dice no, al massimo vi diamo una mano a mantenere la continuità produttiva dello stabilimento, ma lo deve gestire qualcun altro, capito bene? Sì, la posizione è durissima da parte di Whirlpool, ma è una posizione durissima che in qualche maniera si reitera da più di un anno e mezzo, cioè da quando l'azienda nordamericana ha deciso che usciva in Europa da un preciso segmento produttivo. Quindi bisogna dire, è una posizione molto dura e sicuramente un effetto ancor più doloroso, perché ricordiamo che l'effetto Covid è drammatico per tutta l'industria italiana, ma allo stesso tempo è una posizione conseguente e conseguenziale. Non c'è stato alcun mutamento nella posizione di Whirlpool. Questo, tu che hai seguito queste altre crisi aziendali, purtroppo come te lo giustifichi? Perché insomma, adesso non voglio dare ragione né alla Regione Campania né al governo, ma mi sembra che il tentativo poi di trovare delle soluzioni anche con l'aiuto vi sia stato. Sì, il tentativo c'è stato, ci sono molti soldi pubblici in circolazione nel circuito tra economia pubblica ed economia privata, sia in Italia che in Europa, però prevale un criterio di dura razionalità economica da parte delle multinazionali, le quali hanno problemi giganteschi di finanza d'impresa, e Whirlpool è una di esse, e ricordiamo che continua la posizione di Whirlpool, che è disponibile a dare soldi per ciascun lavoratore, uso questa parola orrenda, dismesso, pur di in qualche maniera accompagnarsi da sola dall'uscita da Napoli. Questo perché? Perché in ogni caso i conti non tornano su alcuni segmenti produttivi, e quindi è meglio tirare fuori una cifra che, se non ricordo male, è intorno agli 80.000 euro per ogni lavoratore, lasciare un tesoretto in maniera tale che poi la mano pubblica possa portare a una reindustrializzazione del sito. Okay. Il problema è che questo meccanismo già non era semplice prima del Covid e adesso è ancora più difficile. Noi abbiamo, come dire, visto tante volte invitarli ad intervenire, provarci, impegnarsi, con scarsi risultati, cioè Termini Imerese e E questo volevo chiederti per concludere, cioè, insomma, se come sembra purtroppo Whirlpool non cambierà neanche di una virgola la sua posizione, il piano B a cui faceva riferimento oggi il ministro Patuanelli, che vede appunto il business plan di Alitalia, che cosa prevede? È un piano B che prevede la ricerca di un investitore privato sempre e comunque. Non dobbiamo pensare che si possa nazionalizzare qualunque emergenza economica. Quindi mettendo soldi pubblici per reindustrializzare l'area, renderla più efficiente, più competitiva, cosa buona e giusta, ma molto spesso non con un problema, cioè che comunque serve un investitore privato. Ricordiamo che prima del Covid era circolata la voce di una società di Svizzera, non so se ve lo ricordate, sì, ne abbiamo parlato. Certo. Esatto, ma anche in quel caso poi la cosa si era dimostrata poco concreta. Ora, qualunque impegno profondano gli enti locali a livello di governance locale, il MISE, Patuanelli e anche in qualche maniera i sindacati, che hanno un grosso problema di rappresentanza adesso e di rapporto con quei lavoratori, ecco, il punto è che se non ci sarà l'ago dell'imprenditore privato, dell'investitore privato, e purtroppo quel filo sarà sempre spezzato. Sì, qualcuno che voglia investire nel settore che si chiama del bianco, no? Qualcuno che voglia investire nel settore del bianco, o che, perché probabilmente questa è davvero l'unica possibilità, faccia un'analisi molto approfondita, e i tecnici di Invitalia sono in grado di farlo, delle competenze e delle infrastrutture presenti in loco su Napoli, che ricordiamo è comunque un'area industriale importante del Mezzogiorno, certo, e in qualche maniera converta quella capacità industriale ad altro, anche perché dobbiamo essere molto seri e onesti, ma davvero pensiamo che le lavatrici possano essere ancora prodotte in Occidente, in Europa, oggi, ancora prima del Covid e adesso, dopo che è successa questa tremenda tragedia del Covid? Bisogna essere onesti, è molto difficile che si possa fare, e quindi da qui anche bisogna partire, da un assunto di consapevolezza. Sì, adesso io non sono un esperto del bianco, come si chiama il settore degli elettrodomestici, so che noi una volta eravamo uno dei principali paesi produttori a livello europeo, Paolo, quindi è chiaro che poi la concorrenza anche in questo caso asiatica, ma insomma fino agli anni 90 il 45% degli elettrodomestici europei veniva prodotto in Italia, siamo scesi sostanzialmente sotto i 10 milioni di pezzi adesso, meno del 10% di quanto prodotto in Europa. Grazie comunque anche a Paolo Bricco, e adesso andiamo a salutare gli ascoltatori, diamo appuntamento a domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia.